addio, sogni di gloria, addio, castelli in aria. Guardo con sordo rancore la mia scrivania, cerco scacciare ma invano la monotonia. Addio, anni di gioventù, perché non ritornate più? Sono una foglia d'autunno che nella tormenta teme il grigiore dei giorni, l'inverno paventa. La donna sincera aspettai, compagna dei sogni miei, ma invano cercai, amore, anche tu dove sei? Addio, sogni di gioventù, perché non ritornate più? Prendo la penna e continuo la doppia partita. Faccio una macchia d'inchiostro, mi treman le dita. Meglio tacer le memorie, o vecchio cuor mio, sogni di gloria. Addio.